Fin da bambini siamo stati educati a semplicissime nozioni di pronto soccorso. Che ne so, cadevamo per terra, ci sbucciavamo le ginocchia, andavamo subito dalla mamma, la quale ci puliva la ferita, ci dava il disinfettante e ci spiegava che bisognava farlo, altrimenti i microbi avrebbero potuto causare un'infezione. Un bel cerotto, un bacio, una rassicurazione ed eravamo pronti a partire per la prossima avventura. Altro esempio, i denti. Tutti sappiamo che è bene lavarci i denti dopo mangiato per evitare che si carino. E tutto questo ci è stato insegnato fin da bambini. Ma anche il semplice invito di lavarsi le mani prima di mangiare e dopo essere andati in bagno. Sono tutte piccolissime nozioni di pronto soccorso che insegniamo ai nostri bambini fin da piccolissimi. Questa attenzione verso la salute del corpo è importantissima, ma Gay Winch, psicologo, si è fatto questa domanda: se così tante attenzioni si spendono nei confronti delle ferite fisiche, non sarebbe altrettanto importante educare fin dalla tenerissima età ad alcune nozioni di pronto soccorso emotivo altrettanto importanti? Le ferite fisiche, anche quelle piccole, se non sono curate con attenzione, possono creare delle infezioni e dei danni anche importanti. Allo stesso modo, anche le ferite emotive, anche quelle piccole, se non sono trattate con attenzione fin da subito, con il tempo potrebbero darci dei problemi non indifferenti. Ecco qualche esempio di queste piccole ferite che tutti noi possiamo subire fin da piccoli. Un compagno ci offende, un educatore ci dice che siamo dei buoni a nulla, trattiamo male un amico e di conseguenza lui ci rifiuta. Facciamo un errore e pensiamo per questo di non essere capaci a fare niente. Si tratta di piccole sbucciature interiori che possono anche rimarginarsi da sole, senza problemi. Ma non sarebbe meglio se fossero fin da subito curate e si mettesse un piccolo cerotto interiore per evitare infezioni successive? Gay Winch parla di tutto questo in uno splendido intervento TED e in un suo libro, Pronto Intervento Emozioni. Vi lascio il link in descrizione. Recentemente ho trovato anche un gran bell'articolo in inglese, 7 modi per praticare il pronto soccorso emotivo. Prova a riassumervelo. Primo, presta attenzione al tuo dolore emotivo, riconoscilo e fai qualcosa per lenirlo prima che peggiori. Il dolore fisico ha uno scopo ben preciso, ci avvisa che nel nostro corpo c'è qualcosa che non va e allora siamo portati a fare qualcosa per rimediare. Ora, il dolore emotivo ha la stessa identica funzione. Quotidianamente noi subiamo piccole ferite emotive che abitualmente guariscono da sole, ma in certi casi ci rendiamo conto che non è così. Innanzitutto è importante accorgersene. In secondo luogo potrebbe essere importante fare un piccolo passo in più. A volte potrebbe bastare una semplice telefonata ad un amico. Ne parliamo, ci sfoghiamo e riprendiamo subito forza. A volte potrebbe essere necessario qualcosa di più. Come dire, il sangue si ferma subito, disinfetta e non pensarci più. Invece il sangue continua ad uscire, potrebbe essere importante andare al pronto soccorso. Perché emotivamente dovrebbe essere diverso? Secondo, quando fallisci su qualcosa, indirizza la tua reazione in positivo. Hai risposto male ad un amico? Non sei riuscito a raggiungere un obiettivo in famiglia oppure sul lavoro? Non so se capita anche a te, ma spesso in quei casi la nostra mente continua a ripensare a quella cosa lì, in un circolo vizioso per cui più ci pensiamo e più ci buttiamo giù. E allora, invece di continuare a pensare ciò che è andato male, sentendoci così sempre più impotenti e demoralizzati, perché non provare invece a pensare a che cosa potrei fare di meglio se un domani mi ritrovassi nella stessa situazione? Questo cambio di prospettiva ci farà già sentire meglio e soprattutto ci preparerà ad affrontare in modo diverso situazioni simili nelle quali potremmo trovarci in futuro. Terzo, proteggi la tua autostima prendendoti un momento per essere compassionevole con te stesso. L'autostima è come un sistema immunitario anteriore che ci aiuta a superare il dolore emotivo e a guarire più facilmente. Quando siamo feriti, buttarci giù serve a ben poco. È incredibile come questo sia assolutamente chiaro a livello fisico. Che ne so, mi taglio un dito con un coltello, non è che subito mi metterò sul tavolo con le mani sulla testa a pensare che stupido che sono stato. Come prima cosa cercherò di fermare il sangue, di mettere una fasciatura. Poi in un secondo momento magari penserò, però la prossima volta sarà meglio che stia un po' più attento. Quando siamo emotivamente feriti, magari per un errore o per una brutta risposta che abbiamo ricevuto da un amico, la nostra autostima è in pericolo. Per preservarla è importante praticare l'autocompassione. Quando ti accorgi di essere troppo critico con te stesso, prova a fare così. Immagina che un tuo amico stia male per lo stesso identico motivo per il quale stai male tu in questo momento. Allora prova a scrivergli un'email, butta giù qualche pensiero che possa aiutarlo a tirarsi un po' su. Poi riprendi quell'email e rileggerla. Ecco, è questo quello che dovremmo fare con noi stessi quando ci sentiamo troppo critici. Provare a parlare a noi stessi come parleremmo ad un amico per tirarlo su. Questa è l'autocompassione che ci aiuta a preservare la nostra autostima in pericolo. Quarto, quando sei in preda a pensieri negativi, interrompili distraendoti. Hai presente quando sei in quel circolo vizioso in cui continui a ripetere dentro di te quei pensieri negativi e non riesci in nessun modo ad interromperli? Il modo migliore per interrompere questo malsano rimuginio che ci rode dentro è dedicarci ad un compito che richieda particolare concentrazione. Un sudoku, un cruciverba, oppure possiamo metterci a cucinare quel piatto che ci piace tanto, oppure dedicarci a quella pianta sul terrazzo che ha bisogno di qualche cura in più. Ti accorgerai come anche pochi minuti di concentrazione ti aiuteranno a ridurre quel malsano impulso a concentrarci sui pensieri negativi. Quinto, quando ti accade qualcosa di brutto, trova un significato in quello che ti è accaduto. La perdita fa parte della vita. Possiamo perdere un'opportunità, un lavoro, una persona cara. Ciò che è importante ancora una volta è occuparsi delle ferite emotive causate dalla perdita. Se è trascorso un tempo sufficiente e non riesci ad uscire dal dolore della perdita, prova a cercare un nuovo modo per pensarci. Prova a trovare un significato, magari qualcosa che può averti fatto crescere. Lo so, è difficile, ma credo che sia molto importante per ripartire. Non mi piace parlare di aspetti positivi della perdita. A volte mi sembra irrispettoso nei confronti di chi sta soffrendo o anche nei nostri confronti se siamo noi che stiamo soffrendo per qualcosa. Preferisco parlare di conseguenze positive inaspettate. Ogni perdita porta dei cambiamenti. E magari con il senno di poi potresti accorgerti che sono stati cambiamenti che in qualche modo ti hanno fatto evolvere positivamente. Sesto, non lasciarti scavare dal senso di colpa. Come ogni dolore emotivo, anche il senso di colpa ha una sua funzione. Ci aiuta a capire quali sono stati i nostri errori e magari ci aiuta anche a scusarci per i nostri errori e a rimediare quando è possibile. Ma un senso di colpa eccessivo diventa tossico, diventa uno spreco di risorse interiori, intellettuali, emotive, che ci distrae e ci fa perdere inutilmente serenità. Se abbiamo ferito qualcuno, il nostro senso di colpa potrà aiutarci a chiedere scusa in modo efficace. A questo proposito, ci sono tre miei video che parlano proprio del chiedere scusa in modo efficace. Valli a vedere se ti interessano. Dopo l'errore, il senso di colpa e le scuse, la speranza è quella di riuscire ad ottenere il perdono. Ma anche se ciò non accadesse o non fosse ancora avvenuto, prova ugualmente a perdonare te stesso, praticando ancora una volta quell'autocompassione di cui tutti noi abbiamo così bisogno. Scopri infine quali trattamenti funzionano meglio per te e per le tue ferite emotive. Prova a pensare a come abitualmente le gestisci. Tendi a non pensarci più? Te le scrolli di dosso facilmente? O magari ti arrabbi o ne parli con un amico e poi la cosa passa? Qual è il rimedio migliore per te? Reprimere il dolore oppure negarlo sicuramente serve a ben poco. Molto meglio aprire l'armadietto e vedere qual è il rimedio che fa più al caso tuo. Mi è molto piaciuta anche l'ultima indicazione di Gay Winch. Prendi l'abitudine di tenere nota della tua salute emotiva abituale. Regalati del tempo per sentire, per capire come stai, specialmente dopo qualche ferita importante. All'inizio potrà sembrarci faticoso e allora magari non lo faremo, un po' come quando abbiamo quel dolore alla schiena che ci dà fastidio da così tanto tempo, anche se non è così forte, quindi magari lo trascuriamo. Senza diventare ipocondriaci emotivi, non sarebbe meglio accorgerci delle piccole ferite emotive quotidiane e mettere subito un cerotto quando necessario? Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e condividilo con tutti i tuoi amici, familiari, parenti, parrocchiani, amici dell'asilo e della scuola elementare. E infine, ultimo e ottavo consiglio, importantissimo: iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere le notifiche per ogni nuovo video che esce, come sai, ogni lunedì mattina alle 6, ma anche se lo guardi alle 8 oppure a mezzogiorno fa lo stesso.